Sono le 8:36 di giovedì 22 febbraio 2024 e mentre mi avvio verso la stazione della linea FL3, ascoltando un podcast di Alessandro Barbero, sono interrotto da una pubblicità piuttosto violenta, anche proprio come volume, che spezza il discorso del grande divulgatore storico, insomma, che tutti conosciamo. E la tattica di Google è sempre più chiara, direi, su tutte le sue piattaforme, e cioè quella di tenerti dentro, vedere quanta pubblicità sopporti. La pubblicità aumenta, su YouTube direi che è sempre più evidente, adesso anche su Google Podcast, finché o rimani nell'ecosistema e ti arrendi e sottoscrivi un servizio premium, oppure cerchi di andare da qualche altra parte, ma è impossibile perché sono monopolisti naturali. Diciamo che le altre piattaforme di podcasting, questa era Google Podcast naturalmente, non sono molto migliori. Il che, diciamo, continua a farmi pensare a questa stranezza, cioè che tutte queste grandi piattaforme non sono mai riuscite a cavare un soldo da qualcosa di diverso che non sia la pubblicità, che non ruoti quantomeno intorno alla pubblicità. E poi c'è l'altra cosa non meno fastidiosa, cioè di provare a tenerti dentro sempre limitando le tue possibilità, no? Leggevo l'altro giorno un tweet di una persona che non riesce a importare le proprie playlist di Spotify su Apple Music. Vorrebbe andare su Apple Music perché si vocifera che il suono sia migliore, però poi alla fine finisce per pagare entrambi i servizi perché altrimenti deve rinunciare a alcuni brani che sono nella playlist, il che dal punto di vista industriale è perfettamente comprensibile. Però vedete, si gioca sempre in qualche modo sulla scarsità. Cioè, non siamo mai noi a scegliere. Tutti i sogni della sovranità del consumatore in epoca pseudo-monopolista crollano miseramente. Doveva essere l'era della scelta, quella che stiamo vivendo, e invece abbiamo visto come nelle sue estreme conseguenze anche il liberalismo porta a forme di totalitarismo digitale.